Una bella tazza di latte è proprio quello che ci vuole prima di andare a dormire. A questo sta pensando Conquà, pregustando l'ora in cui si infilerà sotto le coperte. E invece, ecco che improvvisamente squilla il telefono. Oh cielo, Conquà, vieni subito! È successa una cosa terribile! Grida la vocina soave di Fiammetta, una bambolina antica con i capelli rossi che sta dall'altra parte della cornetta. È scomparso il tramonto! Questa sì che è una notizia funesta! Esclama l'orsetto, rovesciando del latte per la sorpresa. In un baleno sono da te! Ma chi era? Chiede Nico incuriosito, raggiungendolo. Presto, preparati! Risponde Conquà tutto eccitato. Un altro mistero ci aspetta! E se il sole fosse sprofondato al centro della Terra? Ipotizza Nico mentre pilota l'aeroplanino. Allora dovremmo cercare un grosso cratere scintillante, riflette Conquà consultando la sua cartina. Ma che strano! Secondo i miei calcoli, dovremmo essere già arrivati. Ecco, ci siamo! Lo interrompe Nico, indicando una grande città con un fiume che le scorre in mezzo. E se invece il sole fosse sprofondato dentro quel fiume? Allora dovremmo cercare tanti giganteschi spruzzi d'acqua brillante, Nico! Controbatte Conquà divertito, leggendo il nome del fiume sulla cartina. Ma sai come si chiama questo fiume? Po! Cioè? Andiamo un po' al Po? Gli fa eco Nico sghignazzando. Vuoi un po' di Po? Che popò di cose fai al Po? I due ridono così tanto che l'aeroplanino va quasi a sbattere contro un enorme e distinto signore che fuma seduto sul tetto di una casa. Ma guarda un po' quello! Grida Nico, virando proprio all'ultimo momento e riuscendo così a evitarlo. Per poco non finivamo in polpette! Strano! Esclama Conquà, scrutandolo con la sua lente d'ingrandimento e notando che è immobile e muto come un pesce. Temo che il signore in questione sia un bel po'... statua. Una statua che fuma dalla testa? Replica Nico sorpreso, mentre sotto di loro sfilano anche delle panchine colorate e delle case con tutti i muri disegnati. Certo che questo posto è un bel po' strano, Conquà? Oh cielo, no! Scoppia a ridere Fiammetta, accogliendoli nel meraviglioso giardino della villa della regina. Quel signore è il comignolo di una casa e il posto dove siete capitati è il Mau. Ti sbagli, Fiammetta, ribatte Conquà stranito. Là non c'erano gatti. Conquà, il Mau, precisa Fiammetta cercando di restare seria. È una specie di museo a cielo aperto. Dei giovani artisti creano delle opere e le mettono lì tra la gente, capito? Allora potremmo chiedere a uno di loro di fare un nuovo tramonto, propone a un certo punto Nico, tutto esaltato. Noi veramente rivorremmo tanto il nostro, li prega Fiammetta introducendoli in una grande stanza della villa, dove si trovano dei vecchi banchi e una lavagna. Gli siamo tutti così affezionati. Nico, qui c'era una scuola, ma ora non c'è più, sospira Fiammetta. Ci veniva Adele, la bambina a cui appartenevo. Era la figlia di un militare italiano, ma quando dovette scappare durante la Seconda Guerra Mondiale, mi dimenticò qui. Dimenticò? Chiede confuso Nico. Ma vedi che è uno strano posto questo, Conquà? Prima quel popò di fiume Po, poi quel Mau senza l'ombra di un gatto. Un momento! Si illumina improvvisamente la bambolina. Io forse so chi ci può aiutare. ripete mille volte senza che gli altri capiscano minimamente cosa dica, Bastet, una gatta. Veramente una statua di gatta, che vive al museo egizio. Signora delle bende! Signora delle bende! Traduce poi lei dandosi un tono da professoressa. Siete un po' ignorantelli, eh? E lei ha un bel po' di puzza sotto il muso, sussurra Nico ai suoi amici. Chi si crede di essere? Neanche fosse un dio. Ma Nico! Gli fa notare Fiammetta con la sua gentilezza ad altri tempi. Bastet è una delle più importanti e venerate divinità dell'antico Egitto. Anche tu! Puzzi di... Bastet si avvicina e lo annusa. Cioccolato? Completa la frase Nico un po' infastidito. Sono i miei biscotti preferiti, quelli al cioccolato. Beato te! Io, con questa bocca... Bastet mostra l'interno della sua bocca. È una voragine nera e profonda, senza l'ombra di un dente. Non riesco più a mangiare niente! Nico ci ficca la testa dentro e grida. Sentite, se è scomparso il tramonto... Riprende a parlare Bastet, chiudendo la bocca così velocemente che Nico ci lascia quasi la testa. Forse c'è lo zampino di un esperto di effetti speciali. Lo sapevo che dovevamo venire qui! Esclama tutta sorridente Fiammetta. Bastet sa sempre tutto! Cosa intende per effetti speciali? Abbozza un sorrisino con qua cadendo dalle nuvole. The Batins! Devo proprio spiegarvi tutto, eh? Si ribella Bastet. Andate al museo del cinema e lì troverete chi fa apparire e scomparire le cose. Intesi? Magari da lì rivediamo il tramonto! Dichiara speranzosa Fiammetta volando con i suoi amici verso il museo del cinema. Sapete, lassù c'è il punto più alto della città. Perfetto! Esclama Conqua indicando sulla piantina la Mole Antonelliana, sede del museo. Allora facciamo presto! Nel tragitto però si imbattono in altre cose strane. Una biciclettina scassata in cima al tetto di una casa. Una fila di bottiglie in bilico sopra le finestre. Ci sono addirittura degli spaghetti arrotolati a un'antenna della TV. Certo che è proprio strana questa città, dichiara Nico guardandosi attorno divertito. Non strana, controbatte Fiammetta fiera. Semmai magica. Lo sapete che siamo nella capitale della magia? Qui tutto può succedere. Allora, forse è stato un mago a far scomparire il tramonto. Afferma Conqua con fare da investigatore. Un mago buono, spero. Riflette ad alta voce Nico. Vediamo. Potrei chiedergli una nuova bicicletta e una scorta di biscotti al cioccolato per l'inverno. Oh, cielo! E se invece fosse un mago cattivo che si vuole tenere il tramonto tutto per sé? Chiede Fiammetta, facendoli rabbrividire. Ma allora è vero che qui tutto è possibile! Esclama sbigottito Nico, non appena è dentro il museo del cinema, davanti a niente popò di meno che il vero vestito di Superman. Con questo, altro che aeroplanino, sarei veloce come la luce! Il bambino, di soppiatto, ruba il vestito e lo indossa, evitando gli occhi indiscreti di due grossi armadi, uomini della sorveglianza. Nico, che fai? Cerca di frenarlo con qua, che però dopo qualche istante vede una cosa a dir poco fantastica. Questa città non è magica, è super magica. Con qua ora è a bordo di una navicella spaziale virtuale e improvvisamente è come se viaggiasse tra i pianeti e le stelle. Ma è meraviglioso! Esclama guardando i pianeti che gli vengono incontro. Tu non sei mai andato così veloce, Nico! Ti ricordo che sei tu che hai costruito l'aeroplanino con qua, non io! Lo provoca il bambino. Ehi, ehi, ragazzi! Dobbiamo trovare l'esperto di effetti speciali! Li richiama Fiammetta guardandosi attorno preoccupata. Ma qui non vedo nessuno che fa scomparire i tramonti. Uffi! E se fosse lassù? Con qua indica la cima della cupola che si trova sopra le loro teste. Allora prendono l'ascensore panoramico che li porta velocissimamente in cima alla mole. Nico, lo sai che hai ancora addosso il mantello di Superman, vero? Gli fa notare con qua. Oh mamma, togliendomi il vestito me ne sono dimenticato! Esclama l'amichetto facendo il finto tonto. Sì, immagino come te lo sei dimenticato! Sorride malizioso l'orsetto. Dunque, non vedo l'esperto di effetti speciali. Ma il sole sì? Eccolo! Con qua indica davanti a sé una montagna da cui spuntano alcuni timidi raggi di sole. Evviva! Abbiamo risolto il mistero! Abbiamo risolto il mistero! Esulta Nico. Non ancora, Nico. Fiammetta! La chiama a gran voce l'orsetto. Deduco che sia quella montagna a rubarvi il tramonto tutte le sere. Tu la conosci? No, con qua. Io quella montagna lì non l'ho mai vista! Risponde Fiammetta sicura. Il mistero si infittisce. Commenta l'orsetto, intrigato. Presto, andiamo a vedere più da vicino. L'aeroplanino pilotato da Super Nico, Nico con il mantello da Superman, sorvola la misteriosa montagna che nasconde il sole. Oh cielo! Sentite anche voi quello che sento io? Chiede disgustata Fiammetta. Bleh, è una puzza terribile! Le fa eco Super Nico tappandosi il naso. Sembrerebbe... Con qua esamina la montagna con la sua lente d'ingrandimento. Una montagna di... spazzatura! Esclamano tutti e tre insieme sbigottiti. Cosa? Strabuzza gli occhi Super Nico. Ma come è potuto succedere? Non ci può proprio credere Fiammetta. Con qua si guarda attorno in cerca di una soluzione. Quando, improvvisamente, qualcosa scende impicchiata giù dal cielo. Attento, Nico, lassù! Grida l'orsetto indicando in alto. Super Nico dà una sventagliata con il mantello imprimendo un'accelerazione incredibile al loro planino e scansa in men che non si dica quell'enorme oggetto non identificato. Hai visto, con qua? Che velocità! Si esalta Super Nico. Intanto l'oggetto plana proprio sulla montagna di spazzatura, facendo volare via un triciclo da una parte e delle cosce di pollo rosicchiate dall'altra. Un meteorite! Dichiara Fiammetta sempre più incredula. Un'enorme palla di puzza! Le fa eco il bambino tappandosi il naso. È un puzzolentissimo meteorite di spazzatura, ragazzi! E arriva da quel pianeta lassù! Afferma sicuro con qua, indicando un pianeta sperduto nello spazio. Dobbiamo assolutamente vederlo da più vicino! Ma come? Ecco la soluzione! Thank you. il planetario. Il telescopio di Conqua ora punta un pianeta lontanissimo e liscio come una palla da biliardo. «Brava, fiammetta!» esclama soddisfatto l'orsetto. «Te l'avevo detto, Conqua, che questo era il posto giusto!» risponde Fiammetta fiera. «Con questo mostro di tecnologia si vedono anche le pulci, delle formiche!» controbatte Conqua sorridendo. «Pulci? Dove sono le pulci?» esplode Nico, che inizia a grattarsi ovunque sotto il mantello. «Nico, era così per dire!» commenta rassegnato Conqua. «Ma non ci posso credere! Ecco chi provoca questo terribile inquinamento interplanetario!» «Chi? Chi? Chi?» chiede Fiammetta incuriosita. «Le pulci! Sono le pulci! Lo sapevo!» continua Super Nico grattandosi. «Non le pulci, Nico!» sorride Conqua. «Bensì dei piccolissimi esserini che definirei dei veri e propri extraterrestri!» «Cosa? Cosa?» esplodono il bambino e Fiammetta all'unisono. «Oh cielo, che carini!» esclama poi la bambolina guardando dentro il telescopio. «Ma che carini!» si lamenta Super Nico continuando imperterrito a grattarsi. «Io vi dico che degli orripilanti esserini mi stanno passeggiando addosso!» «Togliti il mantello!» lo interrompe di colpo Fiammetta. «Cosa?» non capisce Super Nico. «È il mantello!» ribadisce con fermezza la bambolina. «Chissà da quanto tempo era lì! Toglitelo!» grida Super Nico schifato mentre lotta con il mantello per levarselo di dosso. «Ehi, ho capito come fanno a riempire questa città di schifezze!» esclama intanto Conqua guardando ancora nel telescopio. «Aiuto! Presto! Chi ha spento la luce?» si dimena Super Nico per terra, mezzo ricoperto dal mantello e mezzo no. «Usano delle gigantesche catapulte spaziali!» conclude l'orsetto. «Dobbiamo assolutamente dare una lezione a quegli sporcaccioni!» «Ci puoi giurare!» sospira Nico, sfilandosi finalmente via il mantello e il prurito. «Ah! Era ora!» «Che forte! Un cassonetto della spazzatura che parla?» si stupisce Nico, vedendone uno al primo piano del museo A come ambiente, dove la piccola Fiammetta li ha portati. «Sì, esatto, caro bambino!» risponde il cassonetto raggiunto nel frattempo dall'omino R, suo grande amico. «Parlo e ti voglio dir subito una cosa. Risparmiare!» «Riusare!» gli fa eco R. «Ridurre!» continua il cassonetto. «E riciclare!» termina il simpatico omino consegnando a Conqua una piccola pergamena. «Sono le 4 R per mantenere pulita la vostra casa!» «Allora tenetevi anche questo!» dice Nico mostrando loro il mantello di Superman. «Ha bisogno di una ripulita, questo cencio pulcioso! Potete fare qualcosa?» «Ma certo! Si può ripulire tutto, caro il mio ragazzino!» esulta R prendendo il mantello. «Perché lo sapete? Squisiti bambini e amorevoli orsetti e... deliziose bamboline di pannolenci! Ma quanti siete?» «E dalle vostre cose, dalla cucina, dalla vostra cameretta che si decide il destino dell'intero pianeta! Anzi, che dico, dell'intera galassia!» «Ve l'avevo detto che questo posto è fantastico!» esulta Fiammetta, che poi però si adombra. «Ma come faremo a spedire le 4 R nello spazio?» «Ci andremo noi, naturalmente!» esclama Conqua, brandendo la pergamena. «Porteremo noi questa lezione di civiltà ai nostri piccoli amici extraterrestri. Nico?» «Sì! State tranquilli, cari amici vicini e lontani!» si unisce al grido Nico, imitando un po' l'omino R. «L'eroico orsetto di pezza e il suo invincibile padroncino salveranno l'intera galassia dall'attacco degli ultracorpi!» «Voi?» scoppia a ridere Fiammetta, sorridendo sotto la cuffietta. «E come? Tornate a trovarmi! Non dimenticatevi di me anche voi!» grida Fiammetta commossa mentre saluta Nico e Conqua che partono alla volta dello spazio interstellare con il loro aeroplanino. Torneremo presto qui, grida Nico, che poi confuso si rivolge all'orsetto. Ma come si chiama questa città, Conqua? Torino, Nico, si chiama Torino, gli risponde Conqua sorridendo. È stata persino la prima capitale d'Italia e se non fosse per quei piccoli guastafeste sarebbe anche la capitale della pulizia, non credi? Dici che ce la facciamo col nostro aeroplanino ad arrivare lassù? Chiede un po' preoccupato Nico ora che non lo può sentire nessuno. Ma certo, lo rassicura Conqua. Arriveremo da quei puzzosi ultracorpi in men che non si dica, anche senza mantello di Superman, te lo prometto. Meno male, sospira Nico che ingrana la marcia e parte a razzo, su, nel cielo. Entro stasera Torino riavrà il suo tramonto, scrive l'orsetto sul suo quadernino. Parola di Conqua.